Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. 140 miliardi di euro. È questo il valore dell'interscambio commerciale italiano che avviene ogni anno attraverso i valichi stradali con l'Austria. Tanto per farsi un'idea, solo nel 2015, dalla barriera del Brennero, sono entrati quasi 1.800.000 mezzi pesanti e ne sono usciti circa 1.600.000. Quali potrebbero essere quindi le conseguenze per il trasporto merci su strada e in generale per il commercio nazionale della decisione del governo austriaco di ripristinare i controlli alle frontiere? Secondo Confcommercio, la reintroduzione delle verifiche e l'allungamento dei tempi di transito per i TIR genererà un aumento dei costi di almeno 170 milioni di euro l'anno, considerando sia quelli per la gestione dei mezzi, sia quelli per i conducenti. Costi destinati a ricadere, oltre che sulle imprese, anche sul prezzo finale del prodotto e quindi sui consumatori. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E come avete ascoltato dalla nostra scheda iniziale, dopo l'Ungheria e la Slovenia, ora tocca anche all'Italia subire la reintroduzione temporanea, si badi bene, dei controlli alle frontiere. Controlli che nel caso del Brennero, quindi ai confini con l'Austria, potrebbero avere conseguenze pesanti per il traffico delle merci, visto che il 30% di questo traffico da e per l'Europa passa proprio dal Brennero. Ne parliamo in compagnia dei nostri ospiti, che sono oggi Walter Pardacer, AD di Auto Brennero, e Paolo Gè, presidente di Conftrasporto e vicepresidente di Confcommercio. Dottor Pardacer, innanzitutto ci dica che cosa sta succedendo in questo momento al Brennero. Sul Brennero noi abbiamo tre infrastrutture molto vicine una con l'altra, che è l'autostrada stessa, poi la strada statale e infine anche la ferrovia. L'Austria in questi giorni sta iniziando a realizzare una tettoia proprio per permettere i controlli sotto una copertura e poi anche realizza uno steccato, una recinzione per evitare che la gente possa passare senza essere stata sottoposta ai controlli il confine. Ecco, a noi risulta che stia anche predisponendo però un'area di sosta dove deviare i veicoli pesanti per eventuali accertamenti e controlli più approfonditi. Questo è vero, loro dicono che i controlli saranno così fatti. Innanzitutto si divide il traffico merci, il traffico dalle autovetture appunto, e in questo modo poi sia i camion da una parte che le autovetture dall'altra vengono rallentate. Poi decideranno quali di queste autovetture, ovvero quali di questi camion, fermare proprio, e questo lo faranno su dei piazzali, e poi lì verrà effettuato il controllo vero e proprio su quegli automezzi che sono stati selezionati. Un controllo che, come dicevo prima, potrebbe avere delle conseguenze pesanti sul rallentamento proprio del traffico delle merci. C'è uno studio realizzato da Conftrasporto, Confcommercio e Isfort che dà un po' di numeri a proposito di questi rallentamenti, e noi ne parliamo in compagnia del presidente di Conftrasporto e vicepresidente di Confcommercio, Paolo Uggè. Cosa è emerso da questo studio, dottor Uggè? Beh, innanzitutto stiamo parlando di un percorso, una linea se vogliamo, che significa per l'interscambio delle merci qualcosa come 140 miliardi di euro all'anno, e quindi il rischio va valutato per l'economia nazionale. Per quanto riguarda le imprese di autotrasporto, è una stima che noi abbiamo realizzato e che è inferiore rispetto a certi dati che abbiamo sentito, ma noi abbiamo voluto proprio cercare di essere il più puntuali possibili. Beh, per le imprese di autotrasporto noi rischiamo di avere un danno di 170 milioni all'anno, e quindi è evidente che il problema per noi diventa un problema di costo, di competitività. Non ci dimentichiamo mai che se le merci arrivano sui mercati europei in ritardo rispetto ai tempi che il committente impone all'autotrasportatore o che il ricevente richiede di poter avere, beh, la merce viene sostituita da altri prodotti che sono realizzati in altre parti. Io non vorrei che in questa situazione si tenti di confondere o mettere insieme la questione gravissima dei migranti e della sicurezza con lo scherzetto, lo chiamo così, che ogni tanto il governo austriaco mette in atto nei confronti delle esportazioni e dei trasporti italiani soprattutto, introducendo dei divieti che poi dopo qualche mese la Commissione europea giudica non compatibili con la libera circolazione delle merci e che l'Austria ritira. Quindi noi siamo molto preoccupati di questo aspetto, certo. E quindi abbiamo anche avanzato delle proposte. Insomma. 170 milioni di danni che poi ovviamente si riverbereranno su tutto il sistema produttivo del nostro paese, quindi un problema molto serio, tanto che per monitorare l'evolversi di questa situazione vi ricordo che Radio 24, in collaborazione con TIR, che è la rivista dell'albo degli autotrasportatori, ha deciso di lanciare un hashtag di Twitter, l'hashtag è Brennero Merci, grazie al quale voi potete farci sentire tutte le vostre voci, le vostre proteste, oppure fare delle analisi della situazione attuale. Noi raccoglieremo ovviamente tutte queste vostre denunce e le riprenderemo sia in radio sia all'interno della rivista TIR. Pardacer, quali sono le vostre preoccupazioni invece sul tema del rallentamento del traffico e quindi della congestione di quell'area? Quello che è chiaro è che per fare questa selezione delle autovetture e dei camion poi da controllare, il traffico deve essere rallentato complessivamente. Un rallentamento del traffico significa avere code, questo è molto chiaro, perché anche la più piccola perturbazione crea dei danni o comunque delle ripercussioni a valle molto importanti. Noi ci aspettiamo delle code piuttosto lunghe, purtroppo. Dottor Ruggè, lei mi parlava prima di possibili soluzioni che voi avete proposto, tra l'altro anche la stampa nazionale ha ribadito queste vostre posizioni, lo stesso Sole 24 Ore qualche giorno fa ha ripreso questo vostro progetto. Di che cosa si tratta? Ma noi abbiamo ripreso un'idea che il governo austriaco aveva lanciato per controllare il fenomeno dell'utilizzo di autisti, diciamo, affittati che provenivano da paesi dell'est. E noi chiediamo che si instauri un corridoio dove gli automezzi di paesi dell'Unione Europea che provengono da paesi dell'Unione Europea possono circolare liberamente, garantendo quindi la libera circolazione delle merci. Per coloro che invece vengono da paesi extra UE, debbono 7 giorni prima inviare una prenotazione, dire qual è l'azienda, qual è il nome dell'autista, qual è il trattamento dell'autista, che merci trasportano, dove vanno. Quindi limitare i controlli a quei paesi che invece potrebbero essere paesi che consentono la permeabilità di migranti o peggio ancora di terroristi che utilizzano mezzi pesanti per raggiungere zone dell'Europa. Assistiamo un poco preoccupati a queste dichiarazioni che i leader a livello politici, a livello europeo stanno rilasciando, ma intanto che questi rilasciano le dichiarazioni il problema si aggrava di giorno in giorno. Noi corriamo il rischio di trovarci improvvisamente bloccati e per noi italiani la questione è ancora più grave, perché si va ad aggiungere a una decisione che il governo svizzero ha deciso di assumere, e cioè di chiudere 12 punti doganali e di limitare al sabato a solo 4 punti doganali i controlli, il che significa costringere molti autotrasportatori a rientrare il venerdì, prevedere chiaramente un incremento di traffico, perché il traffico si concentrerà o su queste 4 realtà dove vengono fatti i controlli doganali, oppure si concentrerà il venerdì sera perché aumenta il traffico di rientro, e anche questo va a penalizzare la libera circolazione delle merci. La Svizzera era obbligata a notificare questo provvedimento sia all'Unione Europea che ai governi interessati. Al governo italiano noi abbiamo chiesto informazioni, questo non è stato fatto. Quindi ecco perché noi abbiamo lanciato questo grido d'allarme, perché o la libera circolazione delle merci e delle persone è assicurata a tutti in un modo regolare, o veramente bisogna sbrigarsi ad assumere delle decisioni. Bene, termina qui anche questa puntata di Container dedicata al Brennero. Salutiamo e ringraziamo i nostri ospiti, Walter Pardacer D di Auto Brennero, Paolo Gè, presidente di Conftrasporto, vicepresidente di Confcommercio. Prima di lasciarci vi ricordo il nostro hashtag dedicato alla vicenda Brennero, hashtag Brennero Merci su Twitter, per segnalarci le difficoltà che si registrano appunto ai valichi con l'Austria. Vi ricordo anche il nostro indirizzo email container@radio24.it. Il nostro appuntamento ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.